Benvenuti a tutti ascoltatori, io sono Murtag, uno dei quattro conduttori di Nerdcast. In questo nuovo speciale che faccio sia perché volevo farlo da tempo, sia perché voglio un po' colmare il gap, no? Dall'ultima puntata di Nerdcast che è stata un bel po' di tempo fa, parleremo della ripercorreremo un po' la storia del Game Boy fino al Game Boy Advance, quindi non toccheremo Nintendo DS e 3DS. Quella che avete ascoltato in apertura, probabilmente molti di voi l'avranno riconosciuta. Se avete giocato a Pokémon, è la Battle Team di Pokémon, che ricorre migliaia di volte all'interno del gioco ed è unforgettable, non si può assolutamente scordare. Mi è sembrato un buon modo per iniziare questo speciale, che avrà molta più musica che parole in realtà, quindi iniziamo, continuiamo già col secondo pezzo, un pezzo appartenente a un gioco che conoscono tutti, ne sono sicuro, forse il gioco simbolo del Game Boy con la serie Pokémon. Sto parlando di Tetris, la musica principale di Tetris, che è stata oggetto di vari remix nel corso degli anni, è una delle musiche legate ai videogiochi e non solo più famose, in realtà è un motivetto, non è una vera e propria canzone, però anche questa è indimenticabile. Io ve la ripropongo prima di iniziare la vera e propria storia dagli albori del Game Boy, con un remix che mi è piaciuto molto, quindi godetevela. La team di Tetris, la conosceranno sicuramente tutti. Dunque, la storia del Game Boy in realtà nasce con una piattaforma che non si chiamava Game Boy, si chiamava Game & Watch. E partiamo dal 1977, da un uomo di nome Gunpei Yokoi, un producer di Nintendo, che appunto mentre viaggiava in treno notò questo... quest'uomo che cercava di intrattenersi, cercava di divertirsi con una calcolatrice portatile. Allora Yokoi pensò che con la stessa tecnologia con cui venne prodotta quella calcolatrice si potessero creare anche delle piattaforme di gioco portatili adibite chiaramente all'intrattenimento. Con questa idea venne creato nel 1980 il Game & Watch, un prototipo di Game Boy, molto simile di forma all'odierno Nintendo DS. Il Game & Watch aveva, conteneva tanti giochi molto semplici in realtà, chiaramente dato il tempo. Alcuni però fecero la storia e chiaramente portarono tantissime vendite a Nintendo per il Game & Watch, soprattutto per la sua esclusività. Tra i vari giochi possiamo ricordare forse il più famoso, che fu Donkey Kong. Donkey Kong fece un grandissimo successo, in più fu il primo gioco che storicamente introdusse il personaggio di Donkey Kong e anche il personaggio di Super Mario, che ancora non aveva fatto il boom con il primissimo Super Mario. Yokoi è anche una figura fondamentale in Nintendo perché è il creatore di Metroid, di Kid Icarus, di Super Mario Land. Il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare è proprio proveniente da uno dei Super Mario Land per Game Boy, in questo caso Super Mario Land 2. Questa è Wario's Castle e buon ascolto. Super Mario Land 2 Wario's Castle. Super Mario Land, il primo, fece grandissimi numeri di vendite, con 14 milioni solo per Game Boy, superato soltanto a 33 milioni di Tetris. Il Game Boy chiaramente andò a sostituire il Game & Watch, che comunque fece da padrone nel mercato dei portatili per tutti gli anni 80. Il 21 aprile 1989 Nintendo fa uscire e commercializza il primissimo Game Boy in Giappone. Chiaramente le vendite sono straordinarie, Nintendo finisce subito le sue scorte e si trova costretta a produrre ancora altri Game Boy, e conseguentemente con il rilascio anche nel resto del mondo, diciamo, il mercato portatile non solo è tutto di Nintendo, ma frutta anche parecchio alla stessa Nintendo. In più, quando Nintendo rilascia dei giochi favolosi come appunto Super Mario Land, giochi innovativi per quel tempo come anche Tetris, il successo aumenta e aumenta sempre di più. Altro gioco, altra serie molto importante odierna di Nintendo, che nasce grazie al Game Boy e sul Game Boy, è la serie di Kirby. Kirby è secondo me una delle serie più sottovalutate di Nintendo. Non è per niente una serie casual, è una serie che appunto nasce sul Game Boy con Kirby's Dream Land, seguito poi dai vari Kirby's Dream Land 2 e 3, non solo regala un gameplay fresco, ma anche delle musiche accattivanti. In questo senso, ecco a voi una delle musichette più famose in realtà di Kirby, chi ha giocato almeno un Kirby la riconoscerà. Si chiama Bubbly Clouds, buon ascolto. Thank you. Meravigliosa questa Bubbly Clouds di Kirby. Kirby è un gioco che consiglio a tutti, praticamente a tutti, qualsiasi gioco di Kirby. Continuiamo, eravamo rimasti al Game Boy, al successo, il primissimo Game Boy incontrastato, come il Game & Watch per praticamente tutti gli anni 80, che il Game Boy stradomina il mercato dei portatili, essendo praticamente l'unico portatile e non avendo nessun tipo di concorrenza, anche perché a quel tempo gli stessi cellulari erano molto basilari, offrivano al massimo qualche giochino così. Dunque, il primo Game Boy stradomina anche per quasi tutti gli anni 90. Chiaramente, anche le console portatili, anche quando stradominano, hanno bisogno di passare ad una nuova generazione. Accade più o meno questo nel 1998, quando Nintendo crea appunto il Game Boy Color. Il Game Boy Color in realtà non aggiunge fin troppo all'esperienza di gioco del primo Game Boy, però ecco, è un upgrade di hardware secondo me abbastanza considerevole. Si chiama Game Boy Color chiaramente perché i giochi vengono, o meglio, lo schermo può accogliere una seppur minima quantità di colori che comunque aggiungono qualcosa al gioco stesso, ma soprattutto oltre alla CPU raddoppiata, oltre alla memoria di sistema quadruplicata, ci sono anche delle comodità materiali. Il Game Boy Color è molto più piccolo e portatile del primo Game Boy, dunque meno ingombrante. Ha bisogno soltanto di due batterie invece di quattro del Game Boy, che davvero alla fine degli anni 90 sembrava molto obsoleto. Così il predominio di Nintendo continua, incontrastato. Come abbiamo visto, il Game Boy non è solo una piattaforma che introduce nuovi brand, destinati poi a diventare molto famosi nell'universo Nintendo, come abbiamo visto appunto per Kirby, ma riconferma anche, diciamo, glorie del NES e dello SNES anche, e si colloca comunque in un periodo in cui in piena battaglia tra Nintendo 64 e la prima PlayStation, una ottima alternativa è appunto il Game Boy. In questo caso, parlando di glorie leggendarie, diciamo, di Nintendo, anche la saga di The Legend of Zelda all'interno, diciamo, della storia del Game Boy presenta vari capitoli, non solo gli Oracle of Ages, of Seasons, abbiamo anche Link's Awakening, abbiamo il remake di A Link to the Past per Game Boy Advance. Abbiamo dei Minish Cap, per non parlare degli ultimi due Zelda portatili per Nintendo DS. Dunque, anche la saga di Zelda ha una sua importanza all'interno della storia del Game Boy Color. Andiamo ad ascoltare dunque soundtrack proveniente da Link's Awakening. La soundtrack in questione si chiama Koholint Island. Buon ascolto. Thank you. Era Call in Thailand da Link's Awakening, un capitolo molto bello della saga di Zelda solo per Game Boy, molto bello. Allora, chiaramente Game Boy e Game Boy Color vendono tantissimo, insieme vendono più di 118 milioni di copie, una delle console sicuramente più di successo nella storia dei videogiochi, una delle più importanti. Nintendo, durante, diciamo, gli ultimi anni 90 e i primi anni 2000, se la vede chiaramente anche sul campo delle console fisse. Dunque parliamo di Nintendo 64 e PlayStation. E se sembra perdere in realtà contro PlayStation, almeno per questa prima generazione. Per quanto riguarda il mercato dei portatili, essendo l'unica praticamente casa videoludica a produrre una console portatile, vince e stravince, quindi recupera da questo punto di vista sul mercato portatile. Diciamo una limitazione in realtà per il Game Boy e il Game Boy Color è il fatto di non avere quasi nessun gioco di ruolo. Questo è evidente nel momento in cui esce un caposaldo dei giochi di ruolo su PlayStation, dunque grande rivale in quel periodo di Nintendo. Sto parlando di Final Fantasy VII. Nel momento in cui Final Fantasy VII esce e porta alla ribalta gli RPG, Nintendo in qualche modo, sfruttando anche la nuova prossima console, cioè il Game Boy Advance, inizia ad elaborare nuovamente alcuni RPG e a riportare sul Game Boy alcuni RPG che l'hanno resa famosa. In particolare sto parlando di un RPG che non molti conoscono per Game Boy Advance e che, come Kirby stesso, io consiglio caldamente a chiunque. Sto parlando di un RPG chiamato Golden Sun. Non mi dilungherò molto sulla storia di Golden Sun, ci vorrebbe uno speciale dedicato. Vi dico solo che se siete in astinenza da RPG o state cercando qualche RPG vecchio, old school, fatto bene, ma veramente bene, recuperatelo. Noi andiamo ad ascoltare dunque Soul Sanctum da Golden Sun. Buon ascolto. Thank you. Soul Sanctum da Golden Sun, RPG per Game Boy Advance. Dunque, Game Boy Advance, ultimo Game Boy prima dell'odierno, appunto, Nintendo DS, esce il 21 marzo 2001 in Giappone, ha chiaramente un grandissimo riscontro e vende tantissimo, fino a 76 milioni di copie. Il prezzo è molto abbordabile, infatti al lancio viene venduta a meno di 100 euro. E oltre a questo migliora praticamente tutto ciò che non era stato migliorato dal Game Boy Color, dunque la qualità anche dei giochi presentati su Game Boy Advance è molto migliore. Se si fa un confronto in effetti tra la qualità del primo Game Boy e il Game Boy Advance, si vedono subito le tante differenze, e chiaramente grazie a questo Game Boy Advance fa un grandissimo successo. Come abbiamo visto, il Game Boy Advance non solo diciamo migliora le condizioni e le prestazioni del Game Boy, ma migliora anche la qualità dei giochi, non che i giochi su Game Boy e Game Boy Color fossero meno belli, ma si vede che le capacità del Game Boy Advance, che sono simili alle capacità dello SNES, quindi comunque grandissime potenzialità, possono appunto portare dei giochi anche più profondi, come abbiamo visto anche con degli RPG come Golden Sun. Una saga già famosa su Super Nintendo, che continua anche come fece The Legend of Zelda sui Game Boy, è la saga di Castlevania. Castlevania anche su Game Boy porta alcuni titoli molto interessanti. Uno di questi è Castlevania Circle of the Moon, che secondo me contiene diciamo tra le migliori canzoni o comunque soundtrack relative a un videogioco un videogioco per console portatili. Per questo andiamo ad ascoltare Awake da Castlevania Circle of the Moon e buon ascolto. meravigliosa questa Awake da Castlevania Circle of the Moon per Game Boy Advance. Io spero di invogliare qualcuno a recuperare alcuni di questi titoli, perché vi assicuro, oltre ad avere delle soundtrack molto belle, come state appunto ascoltando, hanno un gameplay davvero molto caratteristico e molto bello, considerando che comunque sono giochi per Game Boy. Quindi andate a recuperare un po' di questi capolavori. Del Game Boy in realtà è rimasto poco da dire. Bisogna dire che 2 anni dopo dall'uscita del Game Boy Advance esce il Game Boy SP, Game Boy Advance SP, che in realtà è un restyling del Game Boy Advance. La portabilità è migliorata anche in questo caso, vende più di 21 milioni. È l'ultima console portatile ad avere la denominazione Game Boy, perché dopo questa avremo il Nintendo DS. Il Game Boy Advance SP in realtà porta qualche novità interessante: ha la batteria a litio, quindi le pile vengono definitivamente scartate dal Game Boy, ha un'illuminazione finalmente adatta, perché non l'abbiamo detto, ma una delle caratteristiche peggiori di tutti i Game Boy prima dell'SP era l'illuminazione dello schermo. Chiunque abbia giocato durante una giornata molto soleggiata lo saprà bene, perché certe volte non si riusciva praticamente a capire niente, non si vedeva niente su quello schermo. E il Game Boy SP, anche se a fine generazione, comunque risolve questo problema. Oltre questo, è rimasto a parlare soltanto un po' degli accessori del Game Boy. Prima di farlo, una vecchia conoscenza degli speciali di Nerdcast, cioè Mega Man. Anche Mega Man, come abbiamo visto appunto Castlevania, come The Legend of Zelda, è un brand che su Game Boy è molto attivo, con la serie soprattutto di Mega Man Zero. Questa è High Stage da Mega Man Zero 2. Buon ascolto. Ice Stage da Mega Man Zero 2 per Game Boy Advance. Parlando un po' degli accessori in chiusura del Game Boy, molti sono accessori in realtà simili, comunque integrati nelle console portatili di oggi. Abbiamo il battery pack, abbiamo il Game Boy Printer, la Game Boy Camera. La Game Boy Camera e il Game Boy Printer appunto permettevano di fare stampare delle foto in realtà con una risoluzione molto, diciamo, blanda, ecco, però comunque importanti per quanto riguarda il mercato del portatile. Forse i due accessori più importanti e più famosi per Game Boy sono il Game Shark e il Link Cable. Il Game Shark probabilmente saprete già di cosa si tratta, non solo per Game Boy. Era questa sorta di carta che poteva dava la possibilità di inserire dei trucchi all'interno dei giochi, all'interno del Game Boy stesso, fece grandissimo successo, chiaramente, anche se non venne riconosciuta come diciamo una periferica vera e propria dalla stessa Nintendo, perché comunque faceva qualcosa che non aveva a che fare col vero e proprio gioco. Il Link Cable, cioè il cavo che faceva connettere due o più Game Boy tra di loro, invece ebbe un grandissimo successo, forse l'accessorio anche più importante. Venne utilizzato soprattutto, dobbiamo dirlo, per una serie di giochi, cioè la serie di Pokémon. Pokémon venne studiata anche in base al gioco con il Link Cable, questo perché, come molti di voi sapranno, ma non lo, se non lo sapete ve lo dico io, le versioni di Pokémon arrivano sempre in due versioni, cioè le prime versioni furono rosso e blu, poi abbiamo avuto oro e argento e così via, e questo venne fatto perché chiaramente nelle varie versioni vi erano Pokémon diversi, così se un possessore, per esempio, di Pokémon Blu avesse voluto catturare tutti i Pokémon nel gioco, comunque avrebbe dovuto incontrare qualcuno con il Pokémon rosso che avesse gli trasferisse i Pokémon di cui aveva bisogno. Oltre questo, accessori veri e propri per il Game Boy furono in realtà pochi. Noi continuiamo con la penultima canzone, il penultimo pezzo proveniente da un altro brand, in realtà anche più vecchio di tutti questi altri brand che abbiamo passato fino ad ora. Sto parlando di Sonic, che con Sonic Advance, sul Game Boy Advance appunto, secondo me ha il suo picco all'interno degli anni 2000, perché come sappiamo molti giochi di Sonic all'interno di questo periodo possiamo dire fanno abbastanza schifo, quindi l'unico vero gioco di Sonic che secondo me merita in questi primi anni 2000 è appunto Sonic Advance per Game Boy Advance. Non c'è bisogno di dirvi che comunque consiglio anche questo, perché ha una grafica, diciamo uno stile grafico molto molto bello. Dunque, da Sonic Advance 1 abbiamo Ice Mountain Zone Act 1. Buon ascolto. questa era da Sonic Advance, per Game Boy Advance. Dunque, siamo in chiusura. Prima di chiudere vi do i contatti un po' del podcast. Nerdcast@gmail.com è la mail, il blog di riferimento è nerdpodcast.blogspot.com. su iTunes ci trovate digitando Nerdcast. Questi contatti e altri come Twitter nelle note dell'episodio. Avrei voluto dire anche un po' di più rispetto anche alle varie controversie e altre storie del Game Boy, ma volevo mantenere un po' questo speciale abbastanza breve in attesa della vera e propria puntata che stiamo preparando. Noi ci salutiamo con quest'ultimo pezzo proveniente da Pokémon, che forse non l'ho sottolineato bene nel corso dello speciale, però Pokémon è il gioco simbolo del Game Boy, è uno dei giochi più venduti di sempre, è secondo me meraviglioso. Chiunque non abbia mai giocato ad un Pokémon, consiglio caldamente di farlo, non sapete che cosa vi state perdendo. Noi ci salutiamo con questa Pallet Town Theme proveniente da Pokémon versioni rosso, blu e giallo, e ci vediamo, spero, nella prossima puntata di Nerdcast. Ciao a tutti e grazie.